La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Serata del 95, un gruppo di tre ragazzi giovanissimi si esibiscono in una gara tra band a Milano. In palio c'è l'incisione di un disco a Londra, un premio ghiotto per chi deve emergere e i Verbena, perché allora si chiamavano così, quel premio lo stravincono. Chi c'era quella sera la ricorda bene, come ricorda bene questi tre ragazzi la cui musica ti arrivava addosso, bellissima, struggente, forte. Oggi i Verdena sono in giro per promuovere il nuovo disco, End Cadence, un disco che è davvero una liberazione, una scoperta, e questa che state sentendo è il singolo Un po' esageri. Qui con noi c'è Roberta Sammarelli, che è bassista del gruppo formato da Alberto Ferrari, voce e chitarra, e Luca Ferrari, batteria. Due fratelli presi sin da piccoli dalla musica. Ma procediamo con ordine. Roberta, intanto benvenuta alla prima volta. Allora partiamo da questo nuovo disco. Il titolo End Cadence, che tradotto significa cadenza finale, in realtà però evoca anche il tema della decadenza. Non ha niente a che fare con la decadenza in realtà, però ci può stare, nel senso ci piace anche questa interpretazione. Non è il motivo per cui l'abbiamo scelto, però sì, può andar bene. L'end cadence in realtà è un'azione ben determinata e precisa, che è sostanzialmente un'azione che il compositore Kagel, non si capisce, un compositore argentino vissuto in Germania, diciamo contemporaneo, morto qualche anno fa, lui univa sostanzialmente la musica, quindi la partitura classica da musica orchestrale, a delle performance visive, diciamo, quindi faceva fare ai musicisti anche mezzi attori, comunque gli faceva fare delle interpretazioni col viso, con le espressioni, con dei gesti, per cui l'end cadence era un'azione che doveva fare il timpanista. Sull'ultimo colpo di questo concerto lui ovviamente doveva prepararsi prima e montare al posto della pelle normale del timpano una pelle di carta. Doveva rompere la pelle sull'ultimo colpo del concerto, rompere quelle bacchette, però buttarcisi dentro con mezzo busto e quindi lì rimanere immobile. E quello ci piaceva, ci piaceva proprio l'immagine del musicista che si lancia, si butta dentro il suo strumento. Perché poi di fatto il vostro, questo album è un po' un album che vi ha rapiti, perché contiene tantissime tracce, era nato come un album che si sarebbe dovuto concludere già forse l'anno scorso e che invece è andato avanti. Ci sono stati dei problemi tecnici che vi hanno permesso invece di realizzare nuove tracce. E quindi arrivare a una specie di in qualche modo di enciclopedia, esatto, musicale di mole immenso di materiale. Sì, più o meno è andato così. Quando siamo entrati in studio a scrivere, abbiamo passato tutto il primo anno a scrivere, quindi proprio solo a suonare, improvvisare, riascoltare, costruirci sopra delle canzoni. Solo che poi siamo arrivati a un certo punto della scrittura proprio in cui avevamo abbastanza materiale per iniziare a registrare, ma non avevamo impossibilità tecnica perché c'era un problema in studio di registrazione. Siccome noi abbiamo il nostro studio di registrazione, siamo molto legati, suoniamo lì dentro da più di 20 anni, quindi soprattutto gli ultimi 3 dischi li abbiamo fatti quasi completamente lì, tolto qualche canzone, forse due dischi fa, però ad esempio anche su tutto lo scorso disco Wow l'abbiamo fatto interamente lì dentro, con Alberto proprio che mette le mani fisicamente sul mix, fa da fonico e produttore. In questo disco io gli ho fatto assistente di studio, quindi abbiamo fatto proprio veramente tutto noi. E in quel momento, non potendo iniziare a registrare, cioè non avevamo un registratore proprio, eravamo tutti pronti, avevamo i suoni impostati, però mancava la struttura dove schiacciare il record. E allora quindi, per risolvere questa frustrazione... Esatto, per risolvere questa frustrazione, anziché farci una bella vacanza, abbiamo comprato un pianoforte, abbiamo scritto altre 10 canzoni, giustamente, come fa la gente... normale, no? E quindi alla fine ci siamo trovati con questi 26 brani e inizialmente ci siamo detti vabbè, registriamoli tutti, poi ne scegliamo la metà, usiamo gli altri, poi vediamo per qualcosa, però alla fine ci abbiamo lavorato talmente tanto su ognuno che alla fine li volevamo tenere tutti. Però diciamo che per noi comunque il disco era uno intero, cioè il disco per noi è volume 1 più volume 2, perché non c'è stata distinzione né temporale né effettivamente di genere, diciamo, sì, di ricerca. Cioè semplicemente la scaletta dei due volumi è stata poi separata in maniera equa, nel senso abbiamo diviso in maniera abbastanza equa le varie atmosfere che ci sono nel disco, quindi la chitarra elettrica, il pianoforte, le tastiere, la batteria elettronica, un pezzo di qua, un pezzo di là, insomma, questa è stata più o meno la logica. Voi avete, con Wow avete vinto il disco d'oro, giusto? E comunque avete venduto tantissime copie e avete raggiunto in qualche modo quel confine tra musicisti molto amati, acclamati da critica e pubblico e musicisti pop, però siete sempre riusciti a trovare una mediazione tra le due cose senza far precipitare in qualche modo la vostra ricerca musicale in un alleggerimento, comunque in qualcosa di commerciale e basta. Quindi siete riusciti a rimanere veramente nel cuore dei vostri di chi vi segue. Ma questo penso... Non posso pensarla diversamente, nel senso non posso concepire una cosa diversa da ovviamente quella che facciamo noi. Credo che a noi venga abbastanza semplice riuscire a essere noi stessi, proprio perché una volta che finisce tutto il periodo di promozione, magari anche quello di tour, dove comunque c'hai un contatto con il pubblico, una volta che torni a casa... cioè noi vivendo in un posto comunque di provincia ed essendo quasi sempre chiusi tra di noi o pochi altri amici, non abbiamo nessun tipo di pressione esterna, nessun tipo, poi non siamo neanche tipi molto tecnologici, quindi non andiamo a guardare spesso Facebook della band per vedere la gente cosa dice, cosa si aspetta, perché sarebbe appunto crearsi noi delle aspettative nei nostri confronti, cioè ok, adesso sappiamo che il pubblico si aspetta questo, dobbiamo stare attenti. No, con noi quando torniamo in studio vogliamo essere totalmente liberi di fare quello che ci sentiamo, non ci diamo nessuna regola, e penso sia proprio per questo che poi veniamo in qualche modo premiati dal nostro pubblico. Tu hai parlato di provincia e del fatto che una volta finito la promozione, comunque il tour per promuovere il nuovo disco, ritornate in questa terra. Qual è la terra di provincia? Io lo so che è il Bergamasco, però sì, se ce la puoi raccontare un po' per come la vivi tu e per come viene vissuta anche dal gruppo per intero. Ma noi abbiamo questo studio di registrazione in provincia di Bergamo, ad Albino, dove tra l'altro Alberto e Luca hanno passato, sono cresciuti, nel senso che ci hanno vissuto per 10 anni. Che dire, sono posti da un lato che ti coccolano, nel senso che... Nel senso, anzi, no, non è che ti coccolano, tu ti senti coccolato a te stesso perché hai il tuo nido e sai che nessuno entrerà in questa privacy, diciamo. Noi sostanzialmente, ad esempio, nel paesino siamo ovviamente conosciuti da tutti, ma non per fama, quanto per il rumore che creiamo, perché suonando in una piccola valle e avendo lo studio non troppo insonorizzato a livello professionale, diciamo, ogni colpo di batteria di Luca si sente rimbombare dall'altra parte del paese, cioè in tutto il paese. Quindi la gente della valle, il paesino, ci conosce per quelli che suonano. Tant'è che noi quando chiamiamo la pizzeria da sport, noi diciamo una pizza a sport, cioè a domicilio, dove? A quelli che suonano. E loro sanno dove venire, non gli diciamo neanche indirizzo, ai ragazzi che suonano. Però allo stesso tempo, poi quando magari cioè, quindi c'è una specie di tolleranza perché comunque siamo lì da tanti anni, ci sentono suonare, però alla fine facciamo parte con delle piccole regole, tipo suonare fino alle 10 di sera, non di più. C'è una convivenza tollerante da parte del paese. E poi magari la cosa simpatica è che quando invece magari esce un disco o quindi c'è un articolo sull'Eco di Bergamo o sul giornale di Bergamo, diciamo stampa locale, allora lì si mobilitano, cioè il paesello diventa, Vi accoglie ancora di sì, più, vi diventa, tratta va in come si subbuglio ricorda perché. di chi siete. Perché parlano appunto di noi e allora gli diventano orgogliosi di noi perché, però, solo se andiamo su Eco, cioè possiamo veramente venire qua a fare mezz'ora di intervista, ma l'Eco lì è il top. Ed è proprio questa la cosa che colpisce di più quando si incontrano i Verdena, la loro capacità di far parte del posto da cui provengono, quella volontà di essere radicati e di difendere queste origini. Nella musica invece l'esatto opposto, ricerca, sperimentazione, libertà. La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Verdena, la loro prima volta la consumano su un palco, assieme ad altri ragazzi, ad altre band della provincia, venuti a gareggiare per avere in palio un'incisione. Ad ascoltarli, tanti giovani, bassi suonati come chitarre e sogni, sogni di periferia avvolti da nebbia, attraversati da bici. La musica è la fotografia sonora di quello che sei e quello che vivi in un dato momento. E i Verdena sono proprio questo per molti. Rappresentano, hanno saputo e sanno raccontare un'intera generazione. È anche vero che non siamo molto mondani noi, nonostante non siamo ancora vecchi, ma quasi ci comportiamo già. Non so, non abbiamo mai fatto molto i giovani, quindi vita mondana. Ci piacciono, a parte suonare, ci piace fare una vita abbastanza normale quando siamo a casa. Poi in realtà ci sfoghiamo in tour, quello sì. E tu hai ricordi di quando sei entrata nel gruppo la prima volta? Perché il gruppo è formato da due fratelli, poi sei arrivata tu al Esatto. basso. Cioè, com'è stato l'ingresso, il tuo ingresso? Ma allora, all'epoca avevo 16 anni. E in realtà io li frequentavo e andavo sempre alle loro prove perché ero fidanzata con Alberto. Ci frequentavamo da qualche mese, però andavo sempre a vedere le loro prove. Io in realtà suonavo la chitarra elettrica in un altro gruppo, su cui però avevo un po' perso la passione perché facevamo un genere che non mi piaceva più molto, non mi divertiva. Che era punk rock, quello proprio tre accordi e via, cioè divertente, però quando andavo a vedere le prove dei Verbena, che all'epoca si chiamava Verbena, dicevo, cavolo, bello, mi piacciono un sacco. Quindi io in realtà ero lì in qualità di fidanzata, niente di più. È successo che Alberto e Luca hanno una visione molto... l'unica cosa su cui hanno disciplina è la musica. In quel momento c'è stato il loro bassista che aveva mancato due prove. Bassista ha mancato due prove, eliminato. Ciao, sei fuori dal gruppo. In quel momento cosa è successo? Ok, abbiamo mandato via il bassista. C'ero lì io, ovviamente conoscevo tutti i pezzi perché andavo sempre alle loro prove. Suonavo la chitarra, quindi le note le sapevo a fare col basso perché cioè, le note sono le stesse. E mi hanno chiesto, dai, intanto che cerchiamo un altro bassista, fai così, suona tu il basso, così almeno cioè, non facciamo le prove senza il basso. E da quel giorno che loro dovevano cercare un bassista, io fare il tappo, sono passati 17 anni, 18, una cosa del genere. Ah, Quindi io quindi... ho cambiato strumento, ho cambiato gruppo, ho cambiato vita sostanzialmente. E il basso com'è stato? Cioè, perché il basso ha tutta una filosofia dietro, per cui anche avvicinarsi a un nuovo strumento come il basso, insomma, deve essere stato proprio un cambiamento radicale anche per te come Sì, persona. assolutamente. Ma inizialmente lo trattavo proprio come fosse una chitarra, perché nessuno mi ha spiegato come andava suonato il basso. Quindi, infatti, magari nel primo disco effettivamente questa cosa si sente, anche perché eravamo molto giovani e molto istintivi. Non ci pensavamo minimamente. È stato proprio andando in studio di registrazione con i produttori, no? Per il primo disco Canali e il secondo Manuel Agnelli, che hanno iniziato a mettermi questa pulce nell'orecchio. Ma lo sai che il basso fa parte della sezione ritmica. E inizialmente dicevo, quindi cosa vuol dire? Sezione ritmica che devi essere incollata alla batteria. Ah sì? Ma perché? Non capivo. E da quel giorno però mi ha svoltato, nel senso che lì ho capito effettivamente la differenza tra la chitarra e il basso. Non c'è proprio possibilità, E da di lì ho sì. iniziato a suonare il basso, cioè oddio, l'ho imparato negli anni e forse non sono ancora arrivata a impararlo veramente bene. Perché poi io non ho un grande intuito ritmico, non ce l'ho nel sangue, diciamo, però dopo 15 anni e passa che suono questo strumento, penso ormai di averne acquisito un minimo. Quindi nel corso del tempo, piano piano, ho capito cioè come dovevo gestirmi lo strumento e adesso, ad esempio, è totalmente diverso dall'inizio. Cioè adesso se devo scegliere cosa mettermi nei monitor di suono, metto quasi solo la batteria di Luca. Cioè Alberto, la voce di Alberto me la faccio mettere pochissimo perché in realtà devo seguire Luca perché tutto regga bene. Quanta paura avete voi quando uscite con un nuovo album di come verrà accolto, se avete paura e soprattutto se hai la sensazione, come avviene per esempio agli scrittori, che non ci sarà più un altro album dopo quello, perché non è detto che ci possa essere, no? Perché stiamo parlando di creatività, di... Allora, la paura sì, c'è sempre, così come c'è sempre la paura di salire sul palco anche dopo 20 anni, anzi, forse va peggiorando con l'età. Allora, diciamo, per quanto mi riguarda, la più grossa paura ce l'ho avuta prima di Wow, prima che uscisse Wow, lì proprio, secondo me c'è stato un attimo di panico perché c'era un grosso cambiamento tra il disco precedente e Wow, quindi cioè, noi eravamo convinti del disco che avevamo fatto, ma ci chiedevamo se il pubblico avrebbe capito, compreso e avrebbe apprezzato questo cambiamento. Poi, ovviamente, c'è stato a chi non è piaciuto, chi voleva più chitarra elettrica, chi invece ha apprezzato questa apertura anche a pianoforti. Su questo disco devo dire che c'è anche da dire che è un po' una via di mezzo tra Requiem e Wow, quindi mette un po' a posto tutti quelli che vogliono sentire la chitarra elettrica, quelli che vogliono sentire la canzone con la chitarra acustica, quelli che vogliono sentire la canzone col pianoforte, e di melodia, bene o male, ce n'è sempre nelle nostre canzoni. Quindi, I testi sono sempre bellissimi, mi auguro. I testi sono sempre molto criptici, però quest'anno ci abbiamo lavorato veramente tantissimo, cioè Alberto ci ha lavorato tantissimo. Insomma, su questo disco ci abbiamo lavorato talmente intensamente, talmente tanto, che io ad esempio, e forse veramente anche una questione di età, di consapevolezza, non so. Fatto sta che io, quando abbiamo finito questo disco, non ero minimamente preoccupata, cioè consapevole del fatto che potrebbe non piacere. Non me ne frega niente, nel senso io, Fantastico, libera. sì, anche prendendosi la responsabilità e ri il rischio della cosa, nel senso che se il disco va male, noi non ci campiamo, quindi la nostra vita comunque in qualche modo deve cambiare. Quindi da un certo punto di vista la paura c'è sempre, però non lo so, ci abbiamo lavorato talmente intensamente che secondo me. Alla fine, alla consegna, io mi sono detta, ma può vendere anche 50 copie, a me piace così, non cambierei niente. Alberto ovviamente sì, ci metterebbe mano all'infinito, anche oggi se gli dessero la possibilità, però comunque abbiamo fatto un disco di cui siamo convinti, cioè è quello che ci è uscito, quindi non c'è da discutere, nel senso la paura c'è, ma è così, è andata così. Va bene, quindi adesso basta, cioè adesso vi fermate, fate il tour e poi dopo quanto più o meno vi mettete di solito, come funziona? Lasciate Allora, passare. considerando che uscirà volume 2 Ah, tra giusto, è 3 vero. mesi, tra 2-3 mesi, quindi sostanzialmente passeremo tutto il 2015 in tour barra promozione e poi suppongo che nel 2016 sì, appena di solito noi non suoniamo cioè tantissimo, suoniamo tanto ma concentrato Sì. nell'arco di un anno, quindi quasi mai andiamo oltre l'anno di tour. Quindi dovremmo finire a dicembre e poi da gennaio 2016, chi lo sa. È Va sempre bene, un'incognita la nostra vita. Esatto, come quella di tutti. No, no, perfetto. tra l'altro. La puntata termina qui. Se volete riascoltarci, scaricate il nostro podcast. Se volete entrare a far parte della nostra comunità, andate su Facebook alla pagina Radio 24 trattino la prima volta. Per scriverci l'indirizzo email è laprimavolta@radio24.it. Vi lasciamo con Valvonauta, una canzone bellissima, giovane, inquieta, profonda e solitaria, come certe giornate di provincia. Buon ascolto, alla prossima. Ciao da Cristina.